servono in totale 5.000 firme, in realtà un pochino di più, perché poi saranno firme che sono state autenticate, dovremmo anche raccogliere certificati elettorali, quindi in questi processi qualcuna verrà sempre annullata, quindi anche un pochino di più per poter presentare effettivamente poi questa proposta che il Consiglio regionale sarà obbligato a discutere poi o approvare chiaramente o rifiutare. Voi appunto siete più o meno a metà del guado, è un segnale che questo tema è sentito? Assolutamente sì, è incredibile la risposta che neanche noi ci aspettavamo in realtà, per quanto sappiamo benissimo che la salute mentale e il benessere psicologico sia un tema estremamente sentito dalla cittadinanza, ma la risposta che c'è stata ai banchetti per strada in tutte le città dell'Emilia Romagna è stata veramente incredibile. È un tema che, come dire, un po' abbiamo visto insomma durante la pandemia aveva fatto capolino anche con qualcuno che sostenesse proprio la necessità di una figura come lo psicologo di base, quindi diciamo quella sensibilità è rimasta. Assolutamente sì, ed è un tema in realtà che su cui si sta prendendo sempre più sensibilità. Sappiamo che in generale anche in Emilia Romagna il tema della sanità, un po' in generale del benessere sia fisico che psicologico, è un tema all'ordine del giorno e del dibattito pubblico, per fortuna, e soprattutto l'idea di andare a creare un investimento nuovo e più grande sulla sanità pubblica è un qualcosa su cui i cittadini insomma hanno avuto una risposta ovviamente estremamente favorevole, proprio perché sappiamo che insomma ci sono alcune difficoltà anche nella nostra regione, quindi l'idea di ritornare a investire come su una sanità pubblica che però non abbia solo la parte di medicalizzazione e di cura della parte corporea del benessere fisico ma anche dell'aspetto psicologico, ovviamente è fondamentale in questa fase. Quali vantaggi avrebbe una figura come lo psicologo di base rispetto all'assistenza psicologica che c'è oggi? La figura dello psicologo di base sostanzialmente è equiparabile a quella del medico di base, quindi sarebbe un professionista, chiaramente psicologo, che sarebbe a libero accesso e accesso gratuito, quindi non come per esempio già esiste oggi una figura come lo psicologo di comunità al quale si accede tramite o il medico di base o comunque un intermediario, che siano servizi sociali, insomma enti del terzo settore, ma si potrebbe, nella proposta che ne presentiamo, accedere direttamente o tramite un sito oppure proprio al libero accesso attraverso gli sportelli adeguati. Questo chiaramente creerebbe, visto anche il numero di psicologi che noi dovremmo provare a portare sul territorio, che sono circa uno ogni cinque medici di base che ci sono oggi, veramente a un supporto che sia il più possibile capillare sul territorio, e chiaramente rende anche estremamente facile l'accesso, perché lo scopo dello psicologo di base è proprio andare ad intercettare il disagio psicologico ed emotivo nei momenti in cui è ancora in una fase precoce e quindi magari non ha ancora bisogno di una psicoterapia o di un trattamento addirittura psichiatrico in alcuni casi. Quindi insomma, oltre allo scoglio economico che sappiamo essere uno di quelli più grandi, c'è anche insomma avere uno psicologo come si va dal medico di base aiuterebbe anche a normalizzare questa figura, quindi non avere vergogna o sentire addosso il peso dello stigma. Assolutamente sì, e quello è proprio uno degli elementi principali della proposta, cioè andare a lavorare anche su quello che è la figura in generale, l'idea del benessere psicologico come una delle componenti principali della salute. Ecco, oggi chi ancora purtroppo in tanti casi si considera chi va dallo psicologo e dallo psicoterapeuta un pazzo, una pazza, mentre invece ne vorremmo provare ad andare un po' a scardinare questa visione insomma di fine Novecento, per dire il Covid ce l'ha dimostrato in maniera palese che tutte hanno bisogno dello psicologo, la psicologa, quindi a maggior ragione diciamo rendiamo questo servizio il più possibile fruibile, facile, diretto e gratuito, in modo tale che si prova ad andare anche un attimo a scardinare un'idea, ecco, di società che ancora ci portiamo dietro. Dicevamo all'inizio, avete raccolto 2500 firme, quali saranno le prossime tappe, le prossime scadenze? Allora, abbiamo dei banchetti in realtà tutte le settimane in varie province dell'Emilia Romagna. Il consiglio è, per rimanere aggiornati sia sulla proposta che appunto su dove saranno i banchetti, c'è la pagina Instagram e il sito internet psicologo ER che potete seguire in modo tale da rimanere aggiornati. Ne pubblichiamo tutte le settimane, lunedì e giovedì, insomma delle grafiche, delle slide con i vari banchetti sul territorio emiliano romagnolo. Voi avete tempo fino a ottobre, giusto, per raccogliere le firme? Fino al 15 ottobre, esatto.